attenzione canale 10, c'è qualcuno. Hola, attenzione 10. Chi è avanti? Ci sei? Che è, avanti. Ciao Gianluca. Ciao Lu. Dove vi rapportate senza parlare? Aspetta, che c'ho la radio accesa. Perché? Si sente un rumore strano, ma la ventola. La ventola della radio è perché sto usando, ho capito. Sto usando un amplificatore. Ah? È così, ancora si sente un po' di meno, ma ancora sì. Perché è vicino, ho capito. K. E che radio è, che mod? È sempre 14. No, sto usando un mixer, sto provando, però sì, in effetti lo sentivo anch'io in cuffia. Guarda che c'è una persona che lo sta cercando, se lo stai vendendo. Ma non ne voglio dare qua già, non ne voglio dare, non lo sai. Preferisco aspettare e darlo fuori. Come vuoi. Chiara. Chiara Roggero. Ma chi di là, non sono precisi chi si di voi e chi si di no. Devi nascere, ma la niente no. Capito. La gente, anche se gli dà la roba dentro la scatola, ha sempre da dire, da criticare. E allora, Luca non deve sbirro dai nocchi, nonostante le cose sono sempre state funzionanti. Capito? Quando ti capitano una, due persone, e allora ho deciso di non dar più nulla. Mi fanno anche i complimenti quando le mando fuori. Come ben vedi, anche su Facebook non c'ho un feedback negativo da chi compra. Capito? Invece qua, ma c'è questo, ma c'è quello, cazzo, ma cioè lì video, ma cosa ti rimando io? E la voi vai pure da Dio, oppure andi da chi da Bassona e ti guardi una pizza. No. Vabbè, ma se tu glielo dici dall'inizio, guarda che c'è questo grafico, se ti interessa è così. E tu te lo controlli, dici quello che ha, una volta che glielo dici finito. Ma io lo dico, però ho capito, dopo di quello ti trovano, ti cercano, non ti trovano, ti cercano altre cose. E me la vendo di Luca, per carità. KK. Io ma in uso anche detto con le calossite, hai visto? Hanno fatto fida al nastro e ne stanno facendo ancora, se ne ho due piccoli e hanno fatto le uova di nuovo. Me le fate vedere l'altra volta, sì. No, anche loro sono, diciamo, mezzo allevatori. E io le vendo, perché tanto a tenervi tutti non fa, capito? Noi li vendiamo, vabbè, loro sono i miei, sono, io l'ho preso per la mia compagna, che gli piacevano e gliel'ho presi. Già sono belli, poi li devi prendere da in becco per far sì che poi rimangano sulla spalla e addomesticati, no? Cappa. Vabbè, uno dei quali, quello giallo che mi ha dato, è molto domestico. Ti va sul dito, tu lo prendi, ti va sul dito, sulla spalla, sulla testa. Poi l'altro, come vede a quello, ti va anche lui, capito? Ma probabilmente li aveva già abituati lì, io l'avevo visto che li aveva messi su coso, mi sembra su Facebook, allora per quello te l'ho detto, perché sapevo che anche tu eri appassionato. Chi è a pagare? Sì che sì, aumento dal mixer, aspetta, se aumento invece dalla radio che ce l'ha zero proprio Mackie. A parte il fischio perché c'ho le cuffie, 1, 2, 3, prova. Ah, mi sembrava meglio prima. Hai aumentato il mic, era zero, proprio era all'inizio della M. Ecco, vai a vedere. No, così va benissimo, così è bella forte e presente la radio. Vabbè, è anche tirata, l'ho anche tirata questa radio. Chiara. Che non è tirato il colpo? Sì. Al 99% li ho tirati i trimmer, se no già lo sai come ti esce, neghissi. Allora sono 5 watt, fischiato 40. Sì, sì, sai poi come scaldano quelle radio lì, aumentano sempre di più. C'è già mezz'ora, una mezz'ora che ero su un altro canale facendo le prove. E a parogero. Stavo cercando se questo aveva gli effetti, questo cavolo di mixer che mi hanno dato a provare. Oh, vabbè, questo è il volume. Quant'è? E poi vabbè, gli altri bassi, però dovrebbe avere anche così degli effetti. Questa non è la radio, Luca. In che senso? Come sto uscendo di radio? Bene, bene, cos'è il Saturn? Capo. Wow, sì, hai fatto bene a non riprendere. Hai fatto KK, io ho avuto, sai, quello là, l'ho venduto 300, subito l'hanno preso. No, cazzo, è raccolto, burro, già, hai visto. L'ho fatto fuori subito, troppo barrasone per me, non mi piace. Sì, vabbè, a me mi avevi detto 200, cazzo, che lo stavo prendendo, da voi c'è mal di idea. Beh, quando, chi è Claudio che mi aveva detto, che era raccolto, io non mi ero ascoltato ancora, non l'avevo scoperto. Vabbè, ti sei, vedi, però ti sei rimpossessato del tuo, che magari non l'avresti preso se avessi avuto il mio. Sì, vabbè, uno vale l'altro, anzi, a me mi piace più senza essere toccato, senza fargli modifiche e cose, è meglio naturale. Poi questo qui c'ha tutto, c'ha anche l'eco, c'è tutto qua, funziona tutto qua. Ma il bello di quello là era che le modifiche erano disinseribili, capito? Ma perché non te ne prendiamo così? Ah, ma con una carica, se sei in casa, vedi, ma 40 metri a cucciare, in 20, già, cosa, tanto 27, lo vedi com'è, così che la mattina lo stesso buono, non ci sta pensando nessuno. Almeno c'hai quelle bande lì. Lo so. Vabbè, adesso non è il momento, dai, ho avuto spese, ho dovuto comprare la batteria della macchina nuova, insomma, mi sono ripreso questo apparecchio, quindi questo mese proprio ho avuto spese. Vabbè, ti sei ripreso quello, però aggiungendo una differenza, lo sai che ci sono questi con 100, tu mi dai 100 euro, 300 euro, io non so quanto hai pagato quello, però non puoi paragonare, lo sai benissimo, capito, lo sai benissimo, e l'hai già avuto questo. Questo non l'ho pagato, ho pagato solo praticamente la differenza per farla aggiustare, basta. Allora hai fatto tu l'affarone a Vir, e io ho riparato, te l'avrei dato 1.080 a 300. Scusa, cioè mi hai dato la cosa contattiva allora. Vabbè, io non l'ho dato con quell'intento lì, l'ho dato con l'intento di prendermene un altro. Aspetta un secondo che mi sto facendo. Oh, già, mi devo spostare un attimo. Via, cosa? Ciccio? Attenzione, attenzione, cambio. Chi è? Fra, tu sei? Chi è? Avanti, andiamo bene, andiamo. Fra, secondo me sono registrazioni. Franco, oh Lu, non ne comprendo più nulla io. Che avanti, avanti, o stanno mandando qualche registrazione, perché mi sembrano i segnali bassi.